con lo specchio perché è l'unico che ascolta. Invece di sprecare fiato un'altra volta, nel confronto con il mondo non c'è storia, dato che il pensiero senza peli sulla lingua da discordia. Dove mai nessuno fa qualcosa per niente, se non hai niente da dare poi nessuno ti sente. Potere una granata e le sue schegge, sono tutti figli di puttana che la legge protegge. Tanti volti scuri per le vie della città, come tanti manichini che hanno perso identità. Gli unici sorrisi che vedo sono quelli falsi dentro i manifesti di pubblicità. I calli sulle mani come traccia, che il lavoro che mi rende libero anche quello che mi schiaccia. Nati in una mischia, dove cazzo da voltoi se ne sbattono del culo di chi rischia. Perché è già venduto, basta un contratto, pochi spicci, così m'ha fottuto. E chi mi lanta che non scende mai a patti, è solo un mentitore che travisa i fatti. Se vivo la mia vita solo a scatti, la danza che è scandita dalla cazzo di scadenza dei contratti. Chiedono davvero la pazienza, ma nel mio curriculum non c'è l'esperienza per tenerla. Al giorno d'oggi il mio concetto di pace è che sia un valore aggiunto di chi è sordo e di chi tace, di chi non muove il culo perché trova apparecchiato, di chi si espone solo quando c'ha il culo parato. Elevo il dito medio come una bandiera dritto sulla faccia chi marcia su gente che arranca, di chi si prende gioco della gente che ha la canna, riempie le sue tasche e questo mondo non lo cambia mai.